Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Inchiesta sulle grandi opere, immanente un alto dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici al centro dell'indagine, appalti su Expo e alta velocità. Domani Israele al voto, gli ultimi sondaggi parlano di un vantaggio dei laburisti, ma non è detto che abbiano i numeri per governare. Un anno fa a Palagiano, in Puglia, in un agguato, furono uccisi madre e figlio di 3 anni. Oggi è stato arrestato il presunto mandante. Minaccia il collega con la spada per accaparrarsi un cliente. Succede a Roma, al parcheggio della stazione, scatta l'allerta per i cosiddetti battitori, tassisti disposti a tutto per una buona corsa. Giubileo, il governo chiede che il Vaticano paghi una parte dei costi. Si ragiona su un commissario per gestire l'evento, che potrebbe portare nella capitale 20 milioni di persone. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e durante la diretta il numero di SMS è il 349-238-6666. In apertura la cronaca con una nuova indagine sulla corruzione scattata tra Roma e Firenze che riguarda tra l'altro l'alta velocità, il punto con Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Dall'alta velocità all'Expo e poi ancora dalla metro 5 di Milano alla Fiera di Roma, da City Life al Palazzo Italia di Expo. Tutte le principali grandi opere, insomma, passavano per le mani di Ettore Incalza e quasi tutte ora sono contestate in questa inchiesta della Procura di Firenze che ha portato in carcere il dominus, appunto, dei lavori pubblici italiani insieme all'imprenditore a cui più spesso veniva affidata la direzione dei progetti di queste grandi opere ed altri 2 collaboratori. Di un articolato sistema corruttivo parla il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare in cui mette in fila uno dietro l'altra anni di lavori pubblici eppure di scorciatoie normative che permettevano ad esempio, secondo gli inquirenti, a Incalza di dare con grande facilità il via libera a varianti e modifiche con successiva lievitazione dei costi. La parola magica che nascondeva l'interesse privato, stando all'accusa, nel conservare all'interno di uno stesso giro sempre lo stesso commesse e lavori era consulenze. Le consulenze private con cui le stesse società poi ricompensavano, diciamo così, il super dirigente che avallava i loro progetti. Tutto parte dall'inchiesta sul nodo dell'alta velocità di Firenze e dai lavori affidati all'imprenditore Perrotti. Da lì poi l'indagine fiorentina con i carabinieri del ROS si è allargata ad una rete ben più ampia e ad un giro di appalti dal valore di 25 milioni di euro. Toccati anche alcuni delicati punti diciamo che hanno a che fare tra il mondo dell'imprenditoria e quello della politica, anche se poi è stato smentito il coinvolgimento di alcuni imprenditori, alcuni politici tra i 50 indagati, ma di sicuro ci sono dei punti in cui il mondo dell'imprenditoria, delle grandi opere e quello della politica si toccano ed è questo ora l'aspetto che è ancora diciamo aperto in un'inchiesta fiorentina che tocca appunto le grandi opere e che di sicuro diciamo ha dei confini che non sono quelli stabiliti ancora dall'ordinanza di custodia cautelare di oggi. Simone. Grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti sull'inchiesta, ma chi è il personaggio al centro di questa inchiesta, questo alto dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici? Sentiamo. Nato nel Brindisino, classe 1944, il suo nome appare nel mondo dei lavori pubblici già dalla fine degli anni 70 e ricorre in tutte le grandi opere, dal G8 alla TAV al MOSE. Per molti anni Ercole Incalza è stato una figura di primissimo piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del quale attualmente era consulente esterno. Una lunga carriera, quella dell'ingegnere pugliese, nel 1978 entra come dirigente alla Cassa del Mezzogiorno, vicino al partito. Partito Socialista nel 1983 approda al Ministero dei Trasporti nelle vesti di consigliere dell'allora ministro Claudio Signorile. Negli anni a seguire ricopre diversi incarichi passando dalla motorizzazione alle ferrovie. Nel 1998 i primi guai giudiziari, finisce ai domiciliari assieme all'ex presidente di Italfer Maraini. Superata la bufera di Tangentopoli, nel 2001 torna al Ministero delle Infrastrutture con Pietro Lunardi e diventa poi braccio destro del ministro Altero Matteoli. Al Ministero di Porta Pia Incalza rimane per 14 anni, confermato dagli ultimi 7 governi, nonostante il suo coinvolgimento in altre vicende giudiziarie. A febbraio la Procura di Firenze ha chiesto il suo rinvio a giudizio nell'inchiesta sul sottoattraversamento fiorentino della TAV. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo all'economia e ai provvedimenti del governo, soprattutto iniziando dalle dichiarazioni arrivate poco fa dal presidente dell'INPS Tito Boeri. Tra il primo ed il 20 febbraio sono state 76.000, ha detto Boeri, le imprese che hanno fatto richiesta di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato, come previsto dalla legge di stabilità. Boeri ha spiegato anche che le persone coinvolte dalle assunzioni potrebbero essere molte di più e che fornirà i dati complessivi più avanti per quanto riguarda il mese di febbraio, precisando che sono dati incoraggianti. Ed è questa una settimana nella quale arriva in Parlamento, arriva in aula il disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione. Il ministro Madia promette i dirigenti della pubblica amministrazione, quelli che non funzionano, potranno essere licenziati. Il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. E sì, buongiorno. Disegno di legge alle battute finali in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Tra domani sera e mercoledì il testo dovrebbe arrivare in aula. In Commissione sono rimasti da esaminare però i punti più controversi del provvedimento. Tra questi c'è la stretta sui procedimenti disciplinari che hanno il licenziamento come pena massima, ed ancora nei decreti che attueranno la delega dovrebbe trovare spazio un focus sulle assenze reiterate ed una maggiore attenzione contro eventuali abusi sulla legge 104 che, lo ricordiamo, tutela quanti hanno disabili a carico. Ulteriori dettagli sul DDL li fornisce intanto oggi il ministro della pubblica amministrazione Madia, che interviene sui capitoli dirigenti e sulla mobilità dei dipendenti delle province. Un dirigente inadeguato potrà essere licenziato dallo Stato, anticipa allora il ministro. Il governo, spiega la Madia, ha scelto il modello di una dirigenza autonoma e indipendente dalla politica, pensando però che l'autonomia e l'indipendenza non coincidano con l'inamovibilità dei dirigenti né con la progressione di carriera automatica. Quanto alle province, il ministro conferma: entro la fine di questo mese termineremo la definizione delle cosiddette tabelle di equiparazione. Da quel momento in poi sarà possibile la mobilità. È tutto, linea allo studio. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta, di questo torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno col sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti, col quale parleremo anche del Giubileo che dunque arriva a Roma a fine dicembre come un fulmine a ciel sereno e tra mille preoccupazioni. Nominare un commissario straordinario che assuma su di sé il coordinamento degli interventi per l'anno santo, oppure lasciare tutto il compito allo stesso sindaco Marino, o ancora una via di mezzo, un commissariamento soft affidando poteri speciali al prefetto di Roma. Queste le ipotesi sul tavolo a tre giorni dall'annuncio di Papa Francesco di un Giubileo della Misericordia, ma è scontro in particolare tra Palazzo Chigi e il Campidoglio, con il sindaco poco disposto a delegare. Questo non è il Giubileo delle poltrone, dice Marino. C'è invece chi nel PD vedrebbe di buon occhio un ritorno di Rutelli, ma l'ex sindaco ha già fatto sapere di non essere disponibile. C'è poi la questione dei costi. Per il sottosegretario alla pubblica amministrazione Rughetti occorre aprire una trattativa con la Santa Sede affinché questa possa pagare una parte delle spese legate all'organizzazione. Secondo le prime stime dovrebbero aggirarsi intorno al miliardo di euro. Capitolo sicurezza, infine, con la capitale che sarà messa a dura prova dall'arrivo, si calcola, di 30 milioni di pellegrini. Il ministro dell'Interno Alfano assicura che, anche se l'annuncio del Papa non era previsto, Roma, sotto l'aspetto della sicurezza, sarà certamente pronta. E già dalla prossima settimana comincerà ad operare una cabina di regia presso il Viminale e saranno costituiti gruppi di lavoro ad hoc. Ignazio Marino invece sarà capo di un pool composto da alcuni suoi assessori. Stasera già la prima riunione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E torniamo alla cronaca, innanzitutto con una notizia appena battuta dalle agenzie: 11 anni e 4 mesi, 50.000 euro di multa. Fabrizio Pellegrino, chi è? Il professore di Costigliole Saluzzo, nel Cuneese, arrestato lo scorso agosto per aver avuto rapporti sessuali con alcuni allievi. Il GUP Trevisan, nel processo con rito abbreviato, l'ha condannato anche all'interdizione perpetua dall'insegnamento. Ricorderete, un anno fa, il 17 marzo del 2014, la strage di Palagiano. Mentre erano in auto furono uccisi una donna di 30 anni, il figlio di 3 e il compagno di lei, un detenuto in semilibertà. Oggi è stato arrestato l'uomo che si presume essere il mandante. Ad un anno dalla strage di Palagiano in provincia di Taranto, nella quale morirono un uomo, la sua convivente e uno dei tre figli di quest'ultima, il piccolo Domenico Petruzzelli di appena 30 mesi, svolta nelle indagini. Su ordinanza della direzione distrettuale antimafia di Lecce, oggi i carabinieri hanno fermato un 60enne Giovanni di Napoli di Palagiano. Riteniamo che sia lui il mandante della strage, ha spiegato stamattina a Taranto in una conferenza stampa in prefettura il capo della DDA di Lecce, Cataldo Motta. Nulla ancora invece per il comando che la sera sera del 17 marzo 2014 sparò un impressionante volume di fuoco. A Di Napoli gli investigatori sono risaliti attraverso le ammissioni da lui fatte nel corso di colloqui intercettati con un amico e la moglie. In particolare Di Napoli avrebbe ordinato di far uccidere Cosimo Orlando perché questi lo aveva offeso pubblicamente, chiamandolo infame, ma anche intimidito, danneggiandogli più volte l'auto. Benché i due fossero nella stessa organizzazione malavitosa, ma Di Napoli era in una posizione superiore, Orlando lo aveva continuamente attaccato, rimproverandogli l'assenza di assistenza finanziaria e legale quando era in carcere per un duplice omicidio. Particolare rivelato oggi dal procuratore Motta è che Maria Carla Fornari, compagna di Orlando, aveva anche una relazione col mandante dell'omicidio. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. Rimaniamo sulla cronaca, sono state depositate le motivazioni della condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Garlasco. Ha ucciso Chiara perché la riteneva pericolosa per la propria reputazione di ragazzo bocconiano di buona famiglia. A queste conclusioni sono arrivati i giudici della Corte di Assise d'Appello di Milano che lo scorso dicembre hanno condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata. Lo si legge nelle 140 pagine delle motivazioni alla condanna depositate oggi. Secondo i giudici ci sarebbero stati molti errori nelle indagini sul delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto 2007. La Corte ha preso atto delle molte criticità di alcuni degli accertamenti svolti, riconducibili a errori e negligenze anche gravi, si legge nelle motivazioni. Non si può negare, scrivono i giudici, che in molte occasioni sia stato proprio l'imputato ad indirizzare e ritardare le indagini. Quella del 17 dicembre scorso è la prima condanna per Alberto Stasi, che è stato sempre assolto negli altri precedenti gradi di giudizio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica adesso con quello che si muove a destra, dopo il fine settimana che ha visto Tosi annunciare la sua candidatura per il Veneto, e a sinistra con la discesa in campo di Maurizio Landini. Il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, non si sa quando sarà la data dell'incontro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in vista delle regionali. Il segretario della Lega in Sicilia, dove annuncia che il carroccio correrà da solo in alcuni comuni, mentre con Berlusconi sceglierà progetti e uomini. Il caso più importante è il Veneto, dopo lo strappo di Flavio Tosi nei giorni scorsi. Salvini però è tranquillo, l'alleanza la facciamo con i veneti e Luca Zaia, dice il segretario del carroccio, ha un progetto per altri 5 anni. Sui sondaggi in calo, Salvini dice che i giornali hanno paura della Lega. Nel centrosinistra invece tiene ancora banco la coesione sociale lanciata dal leader della FIOM Maurizio Landini. La CGIL, ricordiamo, ha preso le distanze dal progetto che invece interessa a SEL e alla sinistra Dem. Per Alfredo Dattorre, Renzi sbaglia a delegittimare il leader della FIOM, che può aiutarci a correggere la linea PD su Europa e lavoro. Il vincitore delle primarie PD per Venezia, Felice Casson, ricordiamo anch'egli della minoranza, confessa: Landini mi piace e sabato sono andato da lui. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Restiamo sulla politica, ma andiamo all'estero, andiamo in Israele, dove domani si vota. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore a Gerusalemme. Ugo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo voto, Ugo? Ma probabilmente dopo un buon numero di anni, dal 1999 che non succede, forse i laburisti torneranno a vincere le elezioni con 3-4 seggi di scarto rispetto al Likud di Bibi Netanyahu, il primo ministro uscente. Il problema è che forse vinceranno le elezioni, ma nel sistema elettorico è estremamente proporzionale israeliano. Non è detto che sia però in grado Herzog, il leader dei laburisti, di fare un governo, che invece magari di Netanyahu con le destre, con i vari partiti di destra, magari riusciranno a farlo loro. Molto dipende, oltre che dal successo dei due principali concorrenti, appunto i laburisti da una parte e di Netanyahu con lui dall'altra, conta anche quanto successo avranno i partiti minori del centro-sinistra o i partiti minori del centro-destra. Ti ringrazio Ugo Tramballi per questo aggiornamento e questa analisi. Ovviamente vi terremo aggiornati anche sulle elezioni israeliane. Anche oggi intanto ci spostiamo in Pakistan. Circa 5.000 cristiani si sono radunati a Lahore bloccando strade e urlando slogan contro il governo all'indomani del doppio attentato suicida messo a segno dai talebani nel quartiere cristiano della città. È costato la vita, lo ricordiamo, a 14 persone. I cristiani rappresentano il 2% degli abitanti del Pakistan. Pakistan, a Lahore, vivono circa 100.000 cristiani. Abbiamo decisamente argomento e passiamo al calcio con una giornata di campionato estremamente spezzettata. Questa sera, Dario Ricci, tre partite importanti. Sì, importanti fino a un certo punto, Simone, perché dovremo vedere quanta voglia avranno le squadre che puntano al passaggio del turno in Europa League di affaticare muscoli e magari rischiare caviglie. Chi l'avrebbe detto? Ecco la cosa curiosa da notare, chi l'avrebbe detto solo un paio di stagioni fa che oggi molte big o presunte tali italiane avrebbero puntato proprio su quell'Europa League che fino a 2 anni fa, diciamo, schifavano un po' tutti. E il motivo è presto detto: uno, perché garantisce comunque degli introiti più sostanziosi; due, perché quest'anno chi la vince, dovesse vincere l'Unione Italiana, avrebbe diretto accesso alla Champions League; tre, perché per squadre imperfette, come sono decisamente molte delle nostre grandi, beh, è più facile vincere 4 o 5 partite e quindi fare strada in Coppa piuttosto che trovare regolarità in campionato. E alludo chiaramente, pensiamo a Roma, ma pensiamo soprattutto, visti i risultati già conseguiti ieri, a Inter e Napoli. Tra l'altro, soprattutto quello dei nerazzurri è passaggio del turno tutt'altro che scontato contro il Wolfsburg, servirà un'impresa. Comunque, programma di questa sera alle 19, Fiorentina-Milan, ennesimo esame per Pippo Inzaghi. Torino-Lazio, interessante soprattutto nella prospettiva bianco-celeste, perché a questo punto il secondo posto è proprio lì, il secondo posto della Roma. E poi alle 21 Roma-Sampdoria, vedremo se le due capitoline si avvantaggeranno dello stop di ieri del Napoli a Verona. Inchiesta sulle grandi opere, immanente un alto dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici al centro dell'indagine, appalti su Expo e Alta Velocità. Nei primi 20 giorni di febbraio sono state 76.000 le imprese che hanno fatto richiesta di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato. A dirlo è stato il presidente dell'INPS, Tito Boeri, che parla di segnali incoraggianti. Ma in Israele al voto, gli ultimi sondaggi parlano di un vantaggio dei laburisti, ma non è detto che abbiano i numeri per governare. Minaccia il collega con la spada per accaparrarsi un cliente. Succede a Roma, al parcheggio della stazione, scatta l'allerta per i cosiddetti battitori. Sono tassisti disposti a tutto per una buona corsa. Angelo Rughetti, sottosegretario alla pubblica amministrazione, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma Roma è veramente in grado di gestire un giubileo? Roma deve essere in grado di gestire un giubileo, nel senso che non abbiamo alternative. Dobbiamo mettere insieme tutte le energie positive di cui disponiamo, che non sono soltanto quelle comunali, perché non è un evento che riguarda soltanto la città, per fare in modo che ci sia una sinergia, una collaborazione forte tra tutte le istituzioni coinvolte e si faccia quello che si deve fare. C'è bisogno in modo che non ci siano, diciamo, troppi disagi per i romani. C'è bisogno di un commissario, Rughetti? Ma guardi, io tendenzialmente tendo a privilegiare sempre l'ordinaria amministrazione rispetto alla straordinaria amministrazione, anche perché in questo caso non mi sembra che parliamo di grandi opere o di interventi pesanti che hanno bisogno di corsie preferenziali. Penso che ci serva una buona amministrazione di un buon padre di famiglia. Magari non servono grandi opere, di certo servono un sacco di soldi per rimettere a posto una serie di cose, per risistemare la città, per così dire, anche dal punto di vista, per esempio, dei trasporti pubblici. Si parla di 600 milioni di euro, la stima è corretta più o meno? Ma guardi, secondo me chi parla di soldi oggi lo fa in modo un po' avventato, ecco, diciamo così. Noi prima è giusto che il Vaticano, il Comune di Roma, la città metropolitana di Roma, la Regione e il Governo individuino un piano per il Giubileo. Questo piano sarà fatto di una serie di attività, si vedranno queste attività che costi comportano e si vedrà l'afflusso di questi turisti, che entrate maggiori comportano. Dalla somma di queste due cose si vedrà la differenza, che vorrà dire mettere soldi o prendere soldi. Però non farei un giubileo al contrario, che parliamo di soldi invece di parlare poi, diciamo, della parte organizzativa per noi laici e della parte che riguarda più il significato spirituale per tutti coloro che invece stanno dall'altra parte del Tevere e dovranno invece organizzare nella parte più spirituale. Lei ha parlato della necessità o dell'ipotesi che il Vaticano contribuisca economicamente alle spese. Io ho detto che il Vaticano deve avere una interlocuzione con le istituzioni amministrative italiane e fare in modo che alla fine ci sia una condivisione di tutti i percorsi. Il virgolettato che ha messo il giornale, diciamo, è una sintesi giornalistica, ma se si legge l'intervista si vede che si può leggere che, diciamo, quello che volevo dire e comunicare è che è necessario che non ci sia da un lato il Vaticano e dall'altro le istituzioni democratiche e repubblicane, ma che ci sia un luogo di condivisione di obiettivi e mezzi. Roma, per come oggi, non sarebbe in grado di accogliere quel numero di persone? Beh, Roma per come oggi farebbe sicuramente fatica, perché l'amministrazione attuale ha ereditato una situazione finanziaria e organizzativa molto pesante, e il lavoro che il governo e l'attuale amministrazione stanno cercando di fare attraverso il piano di rientro è di chiudere la partita del deficit, quest'anno sarà l'anno di chiusura, e ricominciare a ricostruire un rapporto nuovo con la città e con i cittadini, che non c'è dubbio alcuno che hanno sofferto tantissimo la cattiva amministrazione degli anni passati. Un'ultima domanda che le voglio fare su un altro argomento, su quello che poi il suo ruolo all'interno dell'esecutivo. Lei è sottosegretario della pubblica amministrazione, l'abbiamo detto prima, si occupa molto, molto di Roma, e non è la prima volta che la interpelliamo per questo motivo, però appunto il suo ruolo nel governo è quello. Questa settimana arriva in aula il famoso DDL di riforma della pubblica amministrazione. Oggi il ministro Madia in un'intervista parla di licenziabilità dei dirigenti pubblici, e però la cosa che fa più discutere è questa mancata estensione di alcuni elementi del Jobs Act al lavoro pubblico. Sì, sono due elementi contenuti nel disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione. Da un lato noi pensiamo che un dirigente che lavora per la pubblica amministrazione non ha fatto 13 al totocalcio, e quindi se non merita il posto in cui sta deve entrare nell'ottica di poter non vedersi più rinnovato, perché non c'è più un automatismo, non si è dirigenti a vita, si è dirigenti se si svolge un lavoro utile da dirigente per la pubblica amministrazione, altrimenti ci sono altre strade come andare nel privato o rimanere senza incarico. Dall'altro, sul Job Act noi abbiamo fatto una scelta secondo me molto di buon senso, perché il Job Act si regge su un rapporto tra impresa e lavoratore che nel pubblico non è ripetibile, perché se noi consentissimo ad ogni nuovo sindaco, ad ogni nuovo ministro, ad ogni nuovo presidente di regione di poter licenziare per motivi economici i dirigenti o i dipendenti in cambio, diciamo, del pagamento di una indennità, commetteremo due errori: uno, perché metteremo la politica sopra la dirigenza, e dall'altro perché quel responsabile politico con dei soldi pubblici potrebbe fare attività politiche, e quindi non, questo non va bene. Per questo abbiamo scelto una strada molto netta. Grazie Angelo Rughetti, sottosegretario della pubblica amministrazione, e saluto Felice Casson, fresco di vittoria alle primarie del centro-sinistra per la candidatura a sindaco di Venezia. Casson, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è contento, insomma, nemmeno glielo devo chiedere, naturalmente lo è, evidentemente. Vorrei chiederle però questo: come vede dal suo punto di vista, innanzitutto, la sua vittoria? Sappiamo, noi l'abbiamo ospitata altre volte anche perché componente della cosiddetta minoranza del Partito Democratico, e quindi che cosa rappresenta questa vittoria anche per voi, insomma, per questa, vogliamo chiamarla corrente o come vogliamo chiamarla, il PD? E la seconda cosa, come valuta questo arrivo sulla scena di Maurizio Landini, se ritiene che ci possa essere un avvicinamento anche in vista della sua corsa per la carica di primo cittadino? Ma innanzitutto devo dire che più che contento sono felice di questa vittoria, che è stata molto ampia numericamente ed estesa a tutto il territorio. Vuol dire che il messaggio dato di legalità, di trasparenza e di efficienza è passato, e non era scontato in una città come Venezia, sconvolta dallo scandalo Mose, da buchi di bilancio enormi, e quindi questo è un segnale positivo di fiducia dei cittadini in un certo modo di fare politica. E ridurre il tutto a questioni di correnti, di aree, mi pare assolutamente sbagliato, perché nella mia concezione, nella mia cultura, una volta finito il congresso è finito il problema delle aree e delle correnti. Si possono avere delle idee diverse su tanti temi, come quella ad esempio in materia di riforme costituzionali, però non è un problema di area ma di visione diversa, sì, temi questo o quello del lavoro. La scelta di Maurizio Landini apre uno scenario alla sinistra del Partito Democratico certamente nuova, non solo per la persona ma anche per il modo di prospettarla e presentarla. Però direi che in questo momento non c'entra niente con le vicende amministrative. Qui si tratta di rimettere in sesto un territorio devastato eticamente per le vicende processuali e finanziariamente per la gestione, diciamo, non ottimale delle finanze pubbliche. La ringrazio, grazie a Felice Casson, che sarà il candidato, come avete sentito, a Venezia per la carica di sindaco. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, c'è la borsa, ci troviamo tra un attimo per la borsa e poi dopo ci occuperemo di questa vicenda che ha colpito in molti, una vicenda avvenuta nel parcheggio della stazione Termini dei taxi a Roma. Che cosa è successo? È successo che un tassista non ha voluto cedere la corsa ad un collega un po' più rabbioso, per così dire, e quest'ultimo ha tirato fuori una katana, ossia una spada giapponese, dal suo taxi ed è andato a bussare al finestrino con questa spada sfoderata. A quanto pare non è l'unico caso di violenze verbali e fisiche che avvengono nel parcheggio dei Termini ed è una cosa sulla quale riflettere. Ne parleremo tra poco. In un'inchiesta sulle grandi opere in manette un alto dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici. Nei primi 20 giorni di febbraio 76.000 imprese hanno fatto richiesta di decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato. Domani Israele al voto, gli ultimi sondaggi parlano di un vantaggio dei laburisti. Giubileo, si ragiona su un commissario per gestire l'evento che potrebbe portare nella capitale 30 milioni di persone. La borsa. Borse in diretta. Più 1,01% il FTSE MIB, altrettanto il FTSE O'Share, positive anche le altre piazze finanziarie europee, Parigi più 0,74%, Francoforte più 1,33%, Isabella Tasso, Radio Cuore, Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Francoforte che ha sfondato una soglia importante, mi sembra, sì, di aver capito. Sì, l'indice DAX a Francoforte guadagnando oltre l'1,3%, come dicevi aggiorna il nuovo massimo storico e va per la prima volta sopra i 12.000 punti. Vanno bene comunque anche le altre borse. Milano ha fatto una breve escursione mattinata oltre quota 23.000 punti per il FTSE MIB, adesso viaggia leggermente sotto ma resta ai massimi da 4 anni, bene anche Parigi che allunga sopra i 5.000 punti. Brevemente ci sono titoli da segnalare in particolare? Il denaro è diffuso un po' su tutto il listino, continuano a essere deboli solo i titoli energetici con Eni che cede ancora l'1,8% e risente ancora del taglio della cedola del 30% circa annunciato venerdì scorso e debole anche Saipem che cede oltre il 3%. Vanno bene invece Atlantia e Autogrill a più 3% tutte e due, questo sulle attese degli effetti positivi per le infrastrutture romane legati al Giubileo. Bene complessivamente le banche, Intesa San Paolo fa più 2,5%, Popolare Milano più 3%. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. E ma con chi credi di parlare tu? Ah sì? Va bene. State a sentire, stronzi figli di puttana, io ne ho abbastanza. Ho avuto anche troppa pazienza e non ho intenzione di... State a sentire, stronzi. Ed eccoci su suggerimento di un caro ascoltatore che ci ha scritto via Twitter, che tra l'altro è un tassista, Sergio Sierra 67. Abbiamo aperto così con l'audio di Taxi Driver per raccontarvi questa storia che è avvenuta a Roma, al parcheggio di Roma Termini. Due tassisti discutono per chi deve prendere una corsa per l'aeroporto, uno dei due tira fuori una spada giapponese, si avvicina al finestrino e minaccia il collega, poi viene arrestato, a quanto pare pieno di cocaina, ma non ha voluto sottoporsi al narcotest, gli è stata naturalmente ritirata la licenza. Loreno Bittarelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Presidente di Radio Taxi 3570 e di URI, che è l'Unione dei Radio Taxi d'Italia. Bittarelli, abbiamo appreso oggi a qualche giornale che esiste questo fenomeno dei cosiddetti battitori. Sono quelli che proprio alla stazione Termini, i suoi colleghi sostanzialmente, che usano linguaggio e a volte non solo linguaggio, anche le mani, per accaparrarsi le corse migliori. Beh, guardi, quello dei luoghi di arrivo, di sbarco dei turisti, ma anche dei cittadini, quindi dei porti e aeroporti, diciamo, e scali ferroviari, diciamo, è un mondo un po' che non solo a Roma esiste, un po' su tutte le città più importanti. Purtroppo sembra impossibile, ma dove in qualche maniera arrivano dei turisti o delle persone comunque che non conoscono bene il servizio, sono i luoghi che più attraggono questi furbetti, diciamo, almeno così pensano di essere, di tassisti e anche di abusivi, devo dire, che vanno a cercare di trovare il pollo della situazione da spennare. È chiaro che questo comporta che ci si debba avere la possibilità di capare le corse, come si dice qui a Roma, di scegliere il cliente. E questo purtroppo avviene. Bittarelli, mi permette una domanda. Allora, nel momento nel quale si arriva ad un episodio di questa dimensione, cioè uno che tira fuori una spada, la sguaina e va a minacciare un collega, quello che precede deve essere non altrettanto terribile, però ci devono essere stati degli episodi precedenti di questo tipo. Cioè è un fenomeno che evidentemente va avanti da tempo, sarà pur residuale nel numero di tassisti che circolano per la stazione Termini, e però è preoccupante. No, assolutamente, ma io sono perfettamente d'accordo con quello che lei dice, tant'è che noi sollecitiamo da anni, da decenni, la necessità in questi luoghi strategici di una maggior presidio da parte delle forze dell'ordine e soprattutto di maggiori verifiche, perché parliamoci chiaro, in tutti questi luoghi ci sono le telecamere, ci sono la polizia, sono i vigili, però non si capisce per quale motivo, diciamo così, non si accorge di nulla nessuno, solo i tassisti corretti, onesti, che come lei ha ribadito sono, gli assicuro, ne conosco tantissimi, 99%, loro si lamentano, si sentono vittime di questa cosa, addirittura preferiscono non andare neanche in questi posti qua. Però perché non si fa qualcosa per tutelare le persone che vogliono operare correttamente, vogliono dare un servizio corretto? Più polizia, dice lei, più polizia ci vuole. Noi abbiamo sollecitato proprio un patto, la necessità di un patto per la sicurezza in questi luoghi che sono quelli, ripeto, che sono quelli più sotto, diciamo, più appetibili. Beh, brevemente, questi, Bittarelli, ma i suoi colleghi, quelli onesti, denunciano oppure no, o hanno paura? Lo denunciano tra di loro, lo denunciano magari alla persona che possono dire, alle loro associazioni, le associazioni lo denunciano nei confronti delle istituzioni, ma poi sono le istituzioni che devono avvenire, devono intervenire e stabilire in qualche maniera dei piani di azione per ostacolare questi fenomeni, perché se continuiamo a dircelo tra di noi, sì, a Ciampino c'è. Però dico, non denunciano le forze dell'ordine. Ma è tempo perso, capito? Poi non succede niente, rischiano magari che si vanno anche a prendere degli sganassoni, ma chi glielo fa fare? Lei lo farebbe se fosse un tassista, cioè io devo andare a fare io il giustiziere, cioè c'è chi è preparato a fare questo, che sono le forze dell'ordine, che devono essere sollecitate dalle istituzioni, da chi insomma ha il dovere di far rispettare le regole. E questo, ecco, che noi chiediamo, sollecitiamo, e in questi luoghi sono proprio dei presidi fissi delle forze dell'ordine, perché è assurdo che ci sia questa concorrenza leale dei presidi. E praticamente anche all'interno della stessa categoria esistono queste mosche bianche, però noi le vogliamo togliere, ci possono aiutare solo le forze dell'ordine, non possiamo andare noi. Se uno tira fuori la scimitarra deve andare il tassista onesto con la rivoltella, non è fattibile una cosa del genere. Grazie. Siamo anche questa opportunità ci date per fare. Grazie, Bittarelli, devo veramente chiudere perché non ho quasi più spazio. Grazie, Lorenzo Bittarelli, presidente di Radio Taxi 3570 dell'Unione dei Radio Taxi d'Italia. C'è l'inchiesta di Daniele Biacchessi oggi dedicata a ciò che c'è a sinistra del PD.